Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prima puntata di giugno, ultimo mese della stagione 2015-2016, anche se per luglio vi stiamo preparando una piccola sorpresa. Puntata che iniziamo oggi nella terra di emigrazione per antonomasia dei nostri expats, la Gran Bretagna, paese che proprio questo mese andrà al voto per decidere se restare in Europa. E a tenerci compagnia oggi saranno anche le ultime puntate stagionali delle nuove rubriche che abbiamo introdotto a ottobre: Contro Esodati, storie di chi ha deciso di tornare in Italia, e L'Ideogramma, sulle opportunità in Estremo Oriente. E allora partiamo! Oggi vi chiediamo di esprimere un giudizio sulla frase della settimana copyright del premier Matteo Renzi. La storia dei cervelli all'estero ritengo sia la più grande presa in giro degli ultimi 20 anni. L'idea che si vada all'estero perché si è bravi e si resta in Italia perché cretini non è concepibile. In un mondo che cambia è normale che chi fa ricerca, ma non solo, vada a fare esperienza all'estero. Vuoi andare all'estero? Vai. Il mio compito, ha spiegato Renzi, non è bloccarti ma costruirti un terreno vivo in cui, se torni, puoi stare in un ambiente migliore di quello che hai lasciato. Attrarre intelligenze, conclude Renzi, è fondamentale e noi abbiamo tutto per attrarle, ci manca la consapevolezza. E allora vi chiediamo, nella settimana in cui una nota ricercatrice come la virologa Ilaria Capo annuncia il suo ritorno all'estero denunciando come in Italia abbiamo menti brillanti, ragazzi preparati, ma non abbiamo un sistema che li tuteli e li valorizzi, quanto vi sembrano appropriate le parole di Matteo Renzi? Parla con cognizione di causa il premier oppure no? Scriveteci la vostra opinione a giovanitalenti@radio24.it. Paradossi d'Italia, andiamo in Sardegna, dove il mese scorso la Corte dei Conti ha affermato che il programma Master and Back avrebbe favorito il fenomeno della fuga dei cervelli. I giudici contabili hanno messo in evidenza le carenze del programma Master and Back, si legge nel report, ha creato opportunità di crescita per i giovani sardi e spesso ha aumentato le loro capacità, ma nel marzo 2015 la quota di immigrati si è assestata al 63% dei beneficiari, un numero decisamente consistente. Nel complesso il motivo della permanenza fuori dalla Sardegna è sostanzialmente imputabile al mercato del lavoro più dinamico. Inoltre il programma non riesce a camminare con entrambe le gambe, risultando deficitario specialmente nella capacità di riportare a casa i cervelli in fuga. E alla fine spiace dirlo, anche perché progetti come Master and Back sono animati da ottime intenzioni, è sempre e solo una questione di attrattività e di opportunità, che siano in Italia o all'estero. Nella penisola, lo ricordiamo, il tasso di disoccupazione dei giovani è risalito ad aprile al 36,9%. I nativi tra gli under 25 sono oltre 4 milioni e 300 mila. I talenti, insomma, vanno dove c'è il campo di gioco migliore e più dinamico. In Inghilterra il merito vale ecco, e la vince sulle altre caratteristiche, gli altri aspetti. Maria Rosaria Taddeo, 35 anni, è una ricercatrice ad Oxford in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora alla nostra rubrica mensile. Contro Esodati arriva alla sua nona puntata. Vi raccontiamo la storia di Riccardo Biondi, 42enne ricercatore tornato nella penisola dopo diversi anni oltre confine. Oltre a proseguire la sua attività di ricerca, Riccardo ha avviato una propria startup. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents. Dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ascoltiamo adesso la storia di Riccardo Biondi, che vi invitiamo a seguire attentamente per le denunce che lui fa di un certo sistema Italia, che scoraggia decisamente i più volenterosi da rientrare in patria. Amo definirmi ricercatore freelance, in quanto in genere mi scrivo progetti e poi vado in cerca di qualcuno che mi ospiti per elaborarli. Me ne sono andato nel 2008 per la prima volta e sono andato in Danimarca, dopodiché sono stato per un breve periodo negli Stati Uniti e poi, sempre con un progetto che ho scritto io, sono stato in Austria negli ultimi 2 anni. Tanti anni fuori, tante esperienze internazionali, poi però decidi di tornare in Italia. Quali sono i motivi? Beh, il motivo fondamentale è l'amore per mio figlio, in quanto ho avuto un bambino nel 2014, quindi poiché il bambino viveva in Italia con la madre sono tornato anch'io per stare con lui, altrimenti per motivi professionali non sarei mai tornato. Perché? Perché l'Italia non offre le possibilità che ci sono all'estero, sia dal punto di vista infrastrutturale che da quello delle opportunità nel campo della ricerca. È stato difficile, con la tua esperienza internazionale alle spalle, trovare opportunità qui quando hai deciso di tornare? No, trovare opportunità non è stato difficile e non lo è in generale, però non è facile trovare opportunità allo stesso livello di quelle che si possono trovare all'estero. Quando parli di livello parli di prospettive di carriera, parli di qualità degli studi, parli di salario? Parlo sì di tutto, di prospettive future che non ce ne sono, di inquadramento anche, nel senso che all'estero in genere ti propongono contratti a tempo determinato con contributi eccetera eccetera. In Italia è molto difficile poter trovare anche una posizione a tempo determinato, nonostante comunque io abbia avuto la possibilità di averla qua, e dal punto di vista salariale non è assolutamente comparabile. Ciò che si guadagna all'estero è molto molto più elevato di ciò che si può guadagnare in Italia. Alla fine però hai trovato una tua dimensione tra la ricerca e il mondo delle startup. In sintesi, di cosa ti occupi ora? Allora, adesso continuo ovviamente a fare ricerca, e quindi ho un assegno di ricerca al CNR, e allo stesso tempo ho avviato una startup lo scorso anno che si occupa di organizzazione eventi scientifici. E tramite questa startup, diciamo, la creazione è dovuta all'esperienza avuta in passato nel settore scientifico, quindi raccogliendo informazioni, parlando con altri ricercatori e vedendo la mia esperienza, ho visto quali fossero le lacune nel settore scientifico, e quindi ho creato questa startup per organizzare questi eventi scientifici che vadano a colmare queste lacune, e quindi per esempio summer school, training school, che vadano a coprire ciò che in genere non viene coperto dall'università o dall'esperienza professionale nel settore della ricerca. Per chiudere, una domanda importante: quale paese più in generale hai trovato al tuo ritorno? Poiché vivi in una dimensione tra la ricerca e l'innovazione, hai visto progressi su questo fronte? No, ho ritrovato lo stesso identico paese che avevo voluto lasciare e le stesse identiche condizioni, perlomeno nel mio settore. Nessuno spiraglio di speranza? Vorrei averne, sinceramente, anche perché le potenzialità dell'Italia sono enormi, e anche noi italiani in realtà siamo bravi, però la mentalità è completamente sbagliata. In termini di attrattività, nuove norme di ingresso e soggiorno nell'Unione Europea sono state approvate dall'Europarlamento. Renderanno più semplice per cittadini extracomunitari studiare o fare ricerca nelle università del continente. Potranno soggiornare nell'Unione per almeno 9 mesi dopo aver terminato i propri studi per cercare lavoro o dare vita a un'attività. E sulle startup c'è tempo fino al 27 giugno per partecipare al premio Gaetano Marzotto, che mette in palio oltre 2 milioni suddivisi in varie tipologie di premi. Tutte le info su premiogaetanomarzotto.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nella meta prediletta dai nostri giovani più internazionali in questo avvio di terzo millennio. Destinazione Inghilterra. Nome: Maria Rosaria. Cognome: Taddeo. Età: 35 anni. Città di origine: nata a Napoli ma cresciuta a Bari. Studi: laurea e dottorato in filosofia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: per la prima volta nel 2002. Per andare dove? Berlino. Perché? Volevo essere nel cuore dell'Europa. Quale lavoro svolge attualmente? Ricercatrice. Dove? In Inghilterra. Tornerai? Forse da vecchio. La mia non è una storia di frustrazione, ma di determinazione. Questo vorrei chiarirlo subito, così Maria Rosaria esordisci nella lettera che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it. Perché un espatrio e una carriera all'estero possono far rima con determinazione, almeno nel tuo caso? Perché non sono andata via dall'Italia dopo aver provato a rimanere, non è stato un ripiego. Sono andata via dall'Italia senza rammarico, perché volevo seguire l'idea di fare ricerca in filosofia in un modo in cui in Italia non si fa. I tuoi studi prendono l'avvio con l'iscrizione, l'hai detto, alla facoltà di filosofia nella tua città Bari. Volevo fare filosofia da quando avevo 8 anni, ricordi. Da dove arriva allora questa passione? Mi piace pensare che sia genetica, insomma, di essere nata un po' filosofa. Forse un po' è vero, uno dei fratelli di mio padre era un professore di filosofia in un famoso liceo di Napoli. Mi ricordo con lui, insomma, grandi discussioni sin da bambina su problemi astratti, problemi teoretici. Tra l'altro vale la pena ricordare che nel scegliere filosofia scarti due facoltà che ti avrebbero potenzialmente offerto ottime possibilità di carriera, come giurisprudenza o fisica, e dopo un anno e mezzo di studi parti per l'Erasmus, destinazione Germania. Allora, quale fondamentale esperienza si rivela per te l'Erasmus? Erasmus? Erasmus è stata un'esperienza completamente travolgente. Io ero una ragazza del sud Italia che è sempre rientrata male negli schemi un po' della nostra cultura e che voleva studiare filosofia e che era stanca di studiare quella filosofia un po' incartapecorita, fissa nei libri della biblioteca. Berlino fu la svolta perché è una città vibrante, moderna, laica, multiculturale, e l'università era completamente diversa per il modo in cui gli studenti la frequentavano, per la varietà dei corsi offerti, per le opportunità extracurriculari, quindi è stata un'esperienza a tutto tondo. Tornare a Bari fu difficilissimo, ricordi, perché? Era un rientro, nel vero senso della parola, era come proprio rimettersi in una forma che non apparteneva più. Io mi ricordo che al ritorno sull'aereo con la mia migliore amica con cui avevo fatto l'Erasmus, a un certo punto prima di atterrare abbiamo visto Bari ed era piccolissima, era proprio piccola, e nessuna delle due riuscì a trattenere le lacrime, insomma. È sempre l'effetto che fa tornare dopo esperienze di grande spessore fuori. A facilitare le cose però è l'arrivo nell'università pugliese di un professore italiano rimpatriato da Oxford. Chi era e perché fece in qualche modo la differenza? Era Luciano Floridi, che adesso insegna di nuovo a Oxford da diversi anni, e la differenza la fece per due ragioni. Uno, perché con lui a Bari si riapriva l'insegnamento di logica, che era il motivo per cui mi ero iscritta all'università, e poi perché Floridi insegnava la filosofia come una cosa viva, come una cosa che si occupava di problemi contemporanei. Ti laurei con 110 lode e una media molto alta, che giudizio però dai tu all'università italiana da 1 a 10? Il giudizio è tra il 4 e il 5, però è un giudizio che si basa sulla mia esperienza. La formazione che ho avuto è stata poco utile per le cose che ho fatto dopo. Ecco, a quel punto si apre la classica fase post laurea. Ti chiedo subito perché decidi di puntare sul dottorato e soprattutto perché opti per farlo rimanendo in Italia. Il dottorato era un passo naturale. Io mi sono iscritta a filosofia perché volevo fare ricerca, volevo fare la filosofa, non avrei mai accettato di fare altro. E l'ho fatto in Italia perché all'epoca ancora non parlavo inglese abbastanza bene da poterlo studiare, da poter fare un dottorato all'estero. E allora il dottorato lo vince Padova, ti sposti dunque in Veneto e ti chiedo perché quell'esperienza si è rivelata importante per mettere le basi del tuo futuro. Cosa ti ha insegnato? Sono stati due gli aspetti fondamentali. Anzitutto Padova è una città molto bella che dal lato umano mi ha regalato contatti, amicizie che sono poi rimaste nel tempo. Dal punto di vista professionale, perché una volta arrivata a Padova ho potuto fare domanda per quello che si chiama Doctor Europeus, per cui una parte del dottorato si può spendere all'estero, io l'ho spesa a Oxford e qui ho imparato a fare ricerca, a sanare alcune lacune che non avevo potuto sanare prima e identificare le aree di ricerca, di lavoro che mi interessavano di più. Tra poco torniamo ad Oxford. Intanto però ti chiedo, molti tuoi colleghi lamentano le difficili condizioni di fare ricerca e svolgere un dottorato in Italia. Tu hai avuto gli stessi problemi, le stesse difficoltà, oppure hai trovato un ambiente stimolante e interessante nella penisola? Parliamo sempre di Padova. Io ho vinto il concorso da outsider, diciamo, e sono rimasto un outsider per tutto il tempo dottorato, un po' anche per, insomma, una mia inclinazione, un po' perché la mia ricerca interessava poco ai miei colleghi patavini, era percepita come poco interessante, forse anche vacua. Del resto non è che ci avessi citazioni in tedesco o troppe formule, quindi non era una ricerca canonica per un dipartimento di filosofia. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo su... Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo della partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi, europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Maria Rosaria Taddeo, 35 anni, ricercatrice ad Oxford. Una storia che parte dalla Puglia, passa per il Veneto e approda in una delle più prestigiose università mondiali, quella di Maria Rosaria, che con una solida base filosofica arriva a occuparsi di sicurezza informatica, ottenendo riconoscimenti internazionali e cariche di prestigio. Lei ci spiega come. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Come approdi, Maria Rosaria, dopo la tesi di dottorato ad Oxford? E quanto è stato difficile arrivare e farti largo in uno dei centri universitari più prestigiosi al mondo? Io approdo ad Oxford, ma più che ad Oxford, in Inghilterra, perché ho vinto un progetto europeo, una Marie Curie Fellowship, sulla cyber warfare, sull'etica della cyber warfare. Mi sono spostata dall'Italia all'Inghilterra, all'Università di Hertfordshire, per sviluppare questo progetto. Farsi largo, non lo so, è stato impegnativo, ma l'impegno è stato un po' personale, perché appena arrivata qui poi ho dovuto affrontare una malattia abbastanza seria, e l'impegno è stato soprattutto per migliorarmi, per cercare di diventare una ricercatrice migliore, per cercare di fare delle analisi sempre più acute, sempre più profonde. Ci è voluto impegno, ma non è stato però, ecco, drammatico. La carriera universitaria oltre Manica è stata rapida alla fine? È stata rapida, mi sono spostata da Hertfordshire poi all'Università di Warwick, fino poi a arrivare o a ritornare a Oxford, dipende un po' da uno come la vede. È stata, mi piace pensare, veloce tanto quanto è stata definita dall'impegno e dal merito. In Inghilterra il merito vale, ecco, e la vince sulle altre caratteristiche, sugli altri aspetti. Questo è importante. Il merito. Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, sei presidentessa di un'associazione internazionale, nonché direttrice di una rivista del gruppo Springa. Soprattutto attraverso la filosofia sei approdata a temi estremamente moderni di attualità, come la sicurezza informatica e il cyber warfare. Attualmente di cosa ti occupi nello specifico? Cyber warfare è ancora un elemento centrale della mia ricerca, cyber warfare, e quindi la regolamentazione di questo fenomeno, dei principi che dovrebbero essere alla base delle leggi che la regolano, ma anche dell'etica dei dati, proteggere la privacy, questioni di fiducia e di trasparenza nella gestione dei dati sono centrali nella ricerca che sviluppo adesso. In particolar modo di recente abbiamo vinto un progetto di ricerca nazionale di più di 9 milioni di pound sull'Internet of Things, che pone molti problemi relativi proprio alla gestione dei dati personali, alla trasparenza e problemi di carattere etico che appunto analizziamo qui all'Oxford Internet Institute. Ti ci vedi a tornare in Italia per condurre le tue ricerche? Vedi anche qui un ambiente culturale universitario aperto alle contaminazioni tra diverse materie e ambiti di studio, soprattutto aperto? Guarda, con l'associazione che menzionavi prima, quest'anno facciamo il convegno annuale, lo teniamo a Ferrara, e alla richiesta di papers abbiamo ricevuto delle risposte italiane anche interessanti, che dimostrano che c'è una certa dinamicità dell'ambiente accademico. Io credo che purtroppo la ricerca in Italia sia soffocata ancora da un sistema baronale che non è sintomatico solo dell'accademia, rispecchia il modo di funzionare del nostro paese, che è fatto di conoscenze, di sotterfugi, di ammiccamenti vari. E allora ti fermo e ti faccio la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Guarda, scuserai la franchezza, io questa idea di ripartire un po', diciamo, sono un po' allergica, un po' perché mi ricordo che l'Italia doveva ripartire dopo le monetine a Craxi e Tangentopoli, poi dopo le stragi di mafia, poi l'idea di ripartire implica il fatto che uno capisca di essersi fermato, di voler ripartire, di riprendere un viaggio magari con una destinazione. Una ricetta specifica non ce l'ho, perché sarei una tuttologa se ne proponessi una, però mi piacerebbe domani vivere in un mondo in cui l'Italia si rivela meno becera di quella che abbiamo visto nei passati 20 anni, meno bigotta, meno maschilista, un'Italia più laica e anche un'Italia in cui gli italiani smettano di fare i furbetti del quartierino. Ci raggiungerà in linea Edoardo Marotti, CEO di Mevaluate. Buon pomeriggio, Edoardo. Buon pomeriggio a voi. Allora, il link, la connessione tra la tua storia e quella di Maria Rosaria risiede in un progetto, appunto, Mevaluate. Che ruolo gioca Maria Rosaria in questo progetto? È un ruolo fondamentale Maria Rosaria lo gioca, perché coordina il segretario generale del Comitato Etico Mondiale di Mevaluate e coordina un team di filosofi, esperti di etica, di diritti umani, di diritto internazionale, e la prima funzione che ha questo comitato, coordinato da Maria Rosaria Taddeo, è quello di garantire che la determinazione del rating della reputazione sia eticamente corretta. Ecco, stiamo entrando ora nel nodo centrale, ti chiedo a questo punto di spiegare cos'è Mevaluate, qual è l'idea alla base e come l'avete sviluppata. Sì, Mevaluate è un'infrastruttura digitale per la qualificazione reputazionale di individui, aziende, enti. Ci sono molti modi per definirla, è anche la banca della reputazione, dove si custodisce e si mette in valore il bene più strategico che esista, vale a dire la reputazione, ma è anche la centrale rischi dell'onestà e delle competenze. Siamo, diciamo, quelli che hanno inventato una nuova unità di misura, la reputazione. C'è anche un link con la Gran Bretagna, perché il governo inglese recentemente vi ha selezionato tra i destinatari di un grant da oltre 40 milioni di euro. Apriamo e chiudiamo una parentesi per dire che state cominciando a offrire anche concrete opportunità di lavoro in Italia. Come? Mivalet ha avviato una ricerca di 12.000 consulenti reputazionali, Mivalet appunto, che saranno selezionati tra i professionisti, soprattutto quelli più giovani, perché è un servizio basato sul web, quindi avvocati, commercialisti, notai, revisori legali, consulenti del lavoro. C'è un modo per candidarsi? Assolutamente sì, perché c'è un sito che è quello di Mivalet, mivalet.com, c'è il bando di selezione. È anche importante, se non fondamentale, il ruolo di alcuni cervelli italiani all'estero nel vostro progetto. Al di là di Maria Rosaria, chi sono e perché sono stati importanti? Innanzitutto il primo cervello che mi ha messo in contatto con Maria Rosaria Taddeo è stato appunto Luciano Floridi, come ricordava Maria Rosaria, che è l'inventore dell'infosfera, la più grossa autorità in termini di etica e filosofia di internet. Grazie a Edoardo Marotti, in bocca al lupo per il vostro progetto. E domanda di rito per Maria Rosaria Taddeo: a quale consiglio dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Il consiglio è lo stesso che do a me stessa: gettare il cuore oltre l'ostacolo, sempre. Partire o non partire non è importante, ma gettare il cuore oltre l'ostacolo, e se si parte, di non viverlo come un ripiego, come un dramma. Sono opportunità che è bellissimo cogliere. In realtà, ecco, se posso dare un altro suggerimento, è di fare un'esperienza all'estero comunque, a prescindere dalle condizioni in cui ci si trova, perché umanamente è un'esperienza che arricchisce. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Torna all'appuntamento con la puntata mensile dell'Idogramma, osservatorio sulle storie e le opportunità in Cina. In quest'ultima puntata stagionale, prima della pausa estiva, Emanuela Verrecchia ci parla delle occasioni in Estremo Oriente nel settore che lei conosce meglio, quello legale. Oggi è l'ultima puntata di questa stagione e ho pensato di dedicarla al mio lavoro e parlare delle opportunità per i giovani avvocati italiani che vorrebbero fare un'esperienza in Cina. Io sono avvocato in materia di proprietà intellettuale e anticontraffazione, ho 20 anni di esperienza e sono arrivata in Cina 9 anni fa, quindi non ero proprio agli inizi. Lavoro in uno studio inglese, presente in Cina dal 93, e ai fini dell'assunzione devo dire che la mia nazionalità è stata del tutto rilevante. Quello che invece è servito sono stati i miei contatti, che mi hanno permesso di portare lavoro. Le lingue straniere, che raccomando di imparare bene facendo anche delle esperienze di studio all'estero durante il liceo e durante l'università. E poi ci vuole ovviamente un po' di intraprendenza e la curiosità di imparare e aggiornarsi sempre e di adattarsi a una cultura lontana anni luce dalla nostra. Oggi la situazione è molto diversa rispetto a quando sono arrivata io nel 2007. Il legale straniero in Cina è in via di estinzione. E se viene assunto non tanto per fare il lavoro, ma per portarlo. Perché? Perché in Cina nessun avvocato straniero può esercitare come in patria, non può rappresentare dinanzi alle corti né agli uffici amministrativi. Per fare questo è richiesta la nazionalità cinese. Che cosa fanno quindi gli avvocati italiani in Cina? Gestiscono la relazione con i clienti, acquisiscono nuovi clienti, nuovi incarichi, fanno quello che comunemente viene definito in gergo business development, coordinano e supervisionano il lavoro fatto dai colleghi locali, che a volte ha degli standard buoni, altre volte invece necessita di una ripulitura, e cercano di rendere la comunicazione più trasparente, più fluida per il cliente, sia da un punto di vista linguistico che da un punto di vista culturale. Ultimamente mi arrivano 2 o 3 curricula a settimana da italiani, avvocati e praticanti in cerca di un posto. È molto difficile, lo dico con un certo rammarico. Se posso dare un suggerimento, rivolgetevi a studi locali cinesi più che a studi stranieri, proponendo di aiutarli a fare business con l'Italia o più latamente con l'estero, e di aiutarli a creare nuovi contatti e supportarli nella comunicazione, e sappiate vendere la vostra curiosità e diversità culturale come strumento per supportare il vostro potenziale datore di lavoro a creare un nuovo business e a cogliere nuovi spunti. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. E